il maschile universale è più facile semplicemente perché è più familiare, abbiamo l'abitudine a utilizzarlo, no? Quindi di nuovo tutto rapportato al contesto nel quale viviamo e alle abitudini che abbiamo introiettato. La questione però che oggi abbiamo prevalentemente ancorato al contesto italiano riguarda un contesto invece internazionale, perché riguardo a strategie linguistiche che in Italia appunto vengono ridotte in modo con atteggiamento da bullismo al fantomatico appunto danno che alcuni nuovi simboli introdurrebbero nel sistema linguistico, invece altrove c'è invece un superamento di queste difficoltà, ad esempio nell'ambito anglofono è ormai diffuso il singular they ed era quindi interessante anche proporre nell'incontro di oggi uno sguardo che ci potesse dar conto di come poi, nei fatti, in modo molto concreto, si può riportare in italiano, quindi nell'ambito della traduzione, un testo che in lingua inglese presenta il singular they e quindi poi in italiano come si può riportarlo, no? Quale strategia si può utilizzare. Ed è per questo che abbiamo invitato Martina Del Romano, che è laureata in linguistica e traduzione all'Università di Pisa. Ha scritto e tradotto il magazine femminista Soft Revolution, insegnato inglese in Ecuador e Giappone. Ha fatto anche brevi incursioni poetiche sul palcoscenico del Poetry Slam e al momento vive a Torino, traduce più libri queer che può, principalmente letteratura per l'adolescenza e fantascienza. Nel 2021 ha vinto il premio Letran Dalo dell'Università di Trento per la sua traduzione de L'unica innocua meraviglia di Brooke Bolander. E quindi grazie per essere qui. Il titolo del tuo intervento è Attraversare il binario, sfide traduttive fra creatività e compromesso. Così? Ok. Innanzitutto grazie mille Manuela e chi insomma, avete organizzato questa tavola rotonda per avermi invitata e grazie anche a voi che avete resistito fino all'ultimo. Dunque, io vorrei iniziare leggendovi una citazione della studiosa e visionaria Donna Haraway, che è autrice di Manifesto Cyborg e Cthulhu Scene. Donna Haraway parla metaforicamente e non di futuri ibridi possibili, sostenibili, postumani anche. Però vorrei per un attimo prendere le sue parole in prestito per parlare di traduzione e di linguaggio. Il nostro compito deve essere fare disordine e creare problemi, scatenare una risposta potente dinanzi a eventi devastanti, ma anche placare le acque tormentate e ricostruire luoghi di quiete. In tempi così critici, molti di noi hanno la tentazione di credere che il problema coincida con la costruzione di un avvenire sicuro. A dire il vero, restare a contatto con il problema, staying with the trouble, richiede la capacità di essere veramente nel presente, ma non come un evanescente anello di congiunzione tra passati terribili o idilliaci da un lato e futuri salvifici o apocalittici dall'altro. Bisogna essere presenti nel mondo in quanto creature mortali interconnesse in una miriade di configurazioni aperte, fatte di luoghi, epoche, questioni e significati. Ora, tradurre è molto spesso considerato un atto di soluzione di un problema, è una soluzione a un problema di comprensione, un rendere accessibile ciò che è inaccessibile. Si parla spesso di traduzioni fedeli e infedeli, insomma, una traduzione si considera una domanda e una risposta corretta e tante risposte sbagliate. In realtà non è così per niente, anzi, se date un testo da tradurre a persone che lavorano nel mestiere, avrete altrettanti testi validi. Alcuni saranno più, magari privilegeranno il ritmo, altri privilegeranno il significato, ma fatto sta che in ogni caso saranno tutti, probabilmente saranno tutti testi validi. È chiaro che ci sono sempre gli errori, in questo caso per esempio magari errori di decodifica, però sono più rari per le persone che lavorano davvero e fanno questo mestiere. In traduzione, il punto è che in traduzione è impossibile avere concetti a priori di giusto e sbagliato. Il contesto è tutto. Senza contesto noi non possiamo dare nessun tipo di suggerimenti su come effettivamente rispondere, no? Eppure, quindi, quando Haraway ci dice che il nostro compito deve essere fare disordine e creare problemi, potrebbe sembrarci un po' l'opposto rispetto a quello che fa la traduzione, no? Ma in realtà le due cose non devono essere necessariamente opposte, infatti Haraway le fa coesistere. Io credo che quando parliamo di linguaggio inclusivo, che meglio chiamare ampio esteso, come anche dice Manuela nel suo libro È la lingua che cambia, si stia facendo esattamente questo, cioè in contesti accademici, attivisti, magari l'atto di stare con il problema potrebbe sembrare più lineare, più ovvio, mentre nella traduzione editoriale, letteraria in particolare, potrebbe essere un equilibrio un po' più difficile da mantenere, per ragioni un po' pratiche legate ai testi, ma anche e soprattutto per ragioni economiche e logistiche legate al mondo editoriale. Quindi quando parliamo di linguaggio inclusivo, ampio, esteso, io che a me piace chiamare anche non binario direttamente, stiamo parlando di che cosa? Di un linguaggio che risponde a delle esigenze diverse ma collegate fra di loro. Una di queste è evitare il maschile sovraesteso, che ovviamente, come forse sapete, io traduco dall'inglese principalmente, e in inglese questo problema non si pone, perché ci sono solamente i pronomi o qualche nome che sia effettivamente marcato a livello di genere. La seconda è rappresentare delle soggettività non binarie, ovvero per tutte quelle persone appunto che non si riconoscono in un genere o nell'altro. Anche in questo l'inglese è un po' facilitato proprio perché c'ha il dei singolare, che comunque ricordiamo non è niente di nuovo, nel senso che risale a Shakespeare, quindi semplicemente prima veniva utilizzato semplicemente per riferirsi magari a persone di cui non si sapeva l'identità e quindi anche il genere. Invece ora viene da diversi anni viene utilizzato anche in questo caso, perché sono emerse delle istanze appunto, no? Di visibilità che prima erano invisibili. E la terza, la terza ragione è nella traduzione editoriale specifica, è creare stratagemmi narrativi basati su ellissi di identità, ovvero molto banalmente dei libri in cui non si vuole rivelare l'identità della persona che parla o l'identità di qualsiasi altra persona, e questi sono degli stratagemmi classici, cioè moltissimi libri esistono e non necessariamente libri recenti, tra l'altro. Un esempio, per esempio, è Scritto sul corpo, no? Di Janet Winterson, pubblicato in Italia nel 93, e la persona che narra la vicenda parla in prima persona e non si sa mai se effettivamente è un narratore, una voce narrante maschile o femminile. Si sa solo che è bisessuale e basta. Per portare come dire, altri esempi di flessibilità dell'italiano, perché è una lingua in realtà molto flessibile, noi ce ne lamentiamo perché non è come l'inglese a livello di neutralità in qualche modo, però è una lingua molto flessibile. Se pensiamo a esercizi di stile, per esempio di Quinault, che è stato tradotto da Umberto Eco, ci sono dei paragrafi in cui viene raccontata una vicenda così, che si chiamano lipogrammi, in e a e tutte le varie vocali, in cui in ogni paragrafo viene scritto questo paragrafo senza l'uso di una delle vocali fondamentali. E quindi, insomma, se possiamo scrivere un paragrafo raccontando una storia senza la A, secondo me possiamo giostrarci in qualche modo. Quindi, linguaggio non binario, che cos'è? Che cos'è e come lo usiamo? Ovviamente sì, sono tutti quegli stratagemmi linguistici per nominare il neutro. Quindi parliamo di schwa, parliamo di U, di X, di troncamento, di asterisco, eccetera, eccetera. Ma non solo. Parliamo anche e soprattutto, io credo, di tutte quelle strategie che io chiamo anche girarci intorno, fondamentalmente, che possono essere tutte quelle che vedete qui. Che poi ora andremo a vedere più nel dettaglio, diciamo, perché vi porterò effettivamente dei testi su cui ho lavorato negli ultimi anni. E quindi, quando, per esempio, l'anno scorso mi sono trovata a tradurre Radio Silence di Ellie Sossman, che è un racconto young adult, quindi per adolescenza, e mi sono trovata di fronte a tre sfide, diciamo. Allora, Radio Silence parla di una ragazza, Frances, e lei è appassionata, cioè 18 anni, è appassionata di un podcast che si chiama Universe City. Questo podcast è narrato, è un podcast avventura, quindi narrativo, è narrato da una voce di cui non si sa il genere, di un personaggio che si chiama Radio Silence, appunto, è proprio il suo nome, che è agender, quindi è non binario, un personaggio non binario. Quindi la prima sfida è stata restituire l'identità non binaria di Radio, perché ci sono proprio dei pezzi, trascrizioni del podcast in cui Radio parla in prima persona. Dall'altro, limitare proprio in questi estratti l'uso del maschile generico, perché si presuppone che magari una persona non binaria parli a un pubblico e cerchi di evitare in qualche modo di usare troppo il maschile generico. La terza sfida è stata quella di preservare il segreto dell'identità della persona che crea il podcast, perché effettivamente è una cosa avvolta nel mistero, diciamo, per una parte del libro. E a proposito di questo, per esempio, in inglese, io qui vedete che l'ho scritto artefice, perché? Perché nell'inglese è the creator, però chiaramente in italiano, a parte che il creatore è un'altra cosa, però è anche più connotata a livello di genere, mentre artefice a livello proprio è ambigenere, oltre che più bello secondo me, però vabbè. Quindi vediamo un esempio. Questo è proprio un estratto dal podcast, quindi. E io non vi leggerò tutto perché sennò qua siamo qua fino a domani, però in viola ho messo tutte quante quelle espressioni che potevano essere tradotte in modo magari più immediato con soluzioni più connotate a livello di genere, che io invece ho manipolato, si potrebbe dire, okay, per girarci un po' intorno, appunto. Quindi by myself diventa senza chiedere niente a nessuno, I've come to the conclusion diventa la conclusione che ho raggiunto, alone diventa solitudine. In completa solitudine invece che solo, ok, o sola. Quindi si può fare, insomma, basta solamente non rimanere troppo attaccati al testo. Per Old Sport c'è tutta una questione, nel senso che Old Sport è una parola che viene utilizzata tipo nel Grande Gatsby, è un appellativo per tipo, non lo so, bro, ok, in questo momento, però viene. In particolare in alcuni contesti per riferirsi a persone di genere maschile, però siccome in inglese effettivamente a livello grammaticale è una parola neutra, è stata riappropriata un po' dall'internet, si potrebbe dire, in modo giocoso, proprio perché è ironico. E quindi il mio modo di tradurlo è stata vecchie canaglie, perché mi sembrava una soluzione che manteneva l'ironia in qualche modo e un po' anche datato apposta e ovviamente il neutro. Il secondo esempio invece è un tweet scritto appunto da Radio, quindi l'artefice, in cui un po' lui, cioè, vabbè, insomma, vai, dico lui perché poi si scopre che è un ragazzo, Aled. Cosa succede? Che diciamo che è un po' depresso e quindi scrive possibili sbocchi professionali, polvere metallica, vuoto siderale, custode in italiano. In inglese ovviamente è supermarket cashier, che significa cassiere, però non è importante perché non ha effettivamente delle ripercussioni nel resto del libro quale sia effettivamente il lavoro di cui parla. Il punto è l'ironia del fatto che questo lavoro è percepito come un lavoro per cui non servono particolari qualità e skills, okay? E quindi ho pensato di utilizzare custode, che magari è una opzione un po' più neutra a livello di genere, appunto. Sempre parlando di fantasy e di fantascienza, che comunque mi sono trovata a tradurre diverse volte negli ultimi 2 anni, io sono anche una grande appassionata, e ci sono tanti esempi di fantasy e fantascienza che mi immagino nuovi approcci al genere all'interno della propria mitologia anche. E Degli esempi sono per esempio La mano sinistra del buio di Ursula Le Guin, qui nella traduzione è stato ritradotto da, mi sembra l'anno scorso, da Chiara Reali. E un altro esempio invece più nuovo, più recente, è questa tetralogia del tensorato di Neon Young. La fantascienza è sempre stato, il fantasy anche, però in particolare la fantascienza, degli spazi di possibilità, immaginazioni di futuri, no? Possibili, e quindi questa sperimentazione con il genere è molto, cioè molto utile, perché ci dà degli spiragli di come potrebbe essere, del fatto che non è tutto magari così ovvio e così naturale, così innato, no? Come a volte tendono a farci credere. Quindi io mi sono trovata, in questo caso l'anno scorso, a tradurre, che è uscito quest'anno, questa antologia che si chiama Il mio genere Top Secret, fantascienza queer e trans. Ci sono diversi racconti in questo libro dal punto di vista di persone non binarie o di creature non binarie. Creature, per esempio, se pensiamo, no, alle creature classiche della fantascienza, pensiamo ai robot, pensiamo agli alieni, no? Pensiamo a queste cose qui. E in inglese queste parole alien, robot, non hanno genere. In italiano, spesso, come tutte le parole che non hanno genere in inglese, spesso vengono automaticamente tradotte al maschile in italiano, e quindi questo, diciamo, che mascolinizza un po' tutta la questione. In due di questi racconti, il primo che vi farò vedere è Morte termica dell'arroganza dell'uomo occidentale di M. Tellez. Stiamo parlando di la voce narrante è un essere, una creatura che è stata sviluppata artificialmente da creature vegetali rizomatiche, di origine rizomatica, che poi sono state, il loro, diciamo, obiettivo è quello di terraformare Marte, cioè l'uomo le ha creati per terraformare Marte e quindi renderla abitabile. E poi vengono queste creature, diciamo che vengono umanizzate in qualche modo, antropomorfizzate, e quindi gli viene data anche la lingua, eccetera, eccetera. E quindi il racconto dal punto di vista di una di queste creature, Inri, si chiama, che ovviamente non ha genere, perché insomma è un fungo praticamente. Quindi il racconto dal punto di vista di Inri è tutto scritto in prima persona al presente. Quindi per me in realtà è stato abbastanza facile aggirare gli ostacoli, un po' gli scogli, perché, cioè, insomma, sì, ci ho un po' girato intorno, e quindi sono riuscita, credo, per tutto il testo a evitare menzioni di genere. Un esempio, appunto, questo primo paragrafo, e quindi vedete le stesse strategie che avete visto magari anche prima, quindi still e disoriented aggettivi diventano, no, immobile aggettivo ambigenere, oppure un sostantivo, un senso di smarrimento. I have left diventa le ho detto addio, e qui anche lì un po' gira intorno, e I am not sure, non so bene, insomma, molto intuitivo. E invece il secondo pezzo, il secondo estratto, è di un altro racconto che si chiama Copie senza originali, che invece parla di, insomma, il protagonista del racconto è un robot, un'intelligenza artificiale, che è la guida di un museo in un mondo in cui l'umanità si è estinta, quindi rimane solo questo museo d'arte. E un giorno la nostra intelligenza artificiale, che di nuovo in tutto il testo parla di sé senza connotazioni di genere, nel museo entra quello che venne riconosciuto come un clone più avanti, e l'intelligenza artificiale non legge il genere di questo clone, nel senso non lo riconosce, e quindi viene utilizzato il they per tutto il testo, in terza persona questa volta. E quindi la mia scelta è stata di utilizzare lo schwa in questo caso, anche se comunque ho tentato di utilizzarla il meno possibile, cioè utilizzarlo il meno possibile, perché secondo me comunque un pochino va a impattare la lettura a livello di ritmo. E quindi, per esempio, se vedete il testo in inglese, a parte che ci sono un sacco di pronomi, they, da noi invece se si fa piazza pulita di tutto abbastanza, e quindi abbiamo anche dei vantaggi ogni tanto. E poi unsure e coy, stessa ma da un lato diventa shva, incerto, e dall'altro diventa invece sostantivo, sempre. E sempre invece parlando di maschile generico, quindi tornando alla parte, questo libro si chiama Cemetery Boys, presentava una sfida niente male, nel senso che Cemetery Boys parla di un ragazzo trans, Yadriel, che vive a Los Angeles e fa parte di una comunità ispanoamericana che sono adepte a una religione che gli fornisce poteri magici, ok? Di parlare con i morti e varie altre cose. E quindi cosa succede? Che Aiden Thomas, l'autore, ha deciso di, siccome utilizza numerose parole spagnole nel testo, la chiama questa comunità, la chiama comunità Brujex, ok? Con la X. Perché Brujex è la maniera neutra spagnola di l'alternativa neutra spagnola di brujo o bruja, ovvero strego, strega stregone, insomma. E quindi chiaramente questo l'ha fatto per tentare di evitare il maschile generico dello spagnolo nel testo, perché nell'inglese questo non si, il problema non si pone. Chiaramente il problema in italiano si è posto invece, perché elidere il maschile generico completamente da tutto il testo sarebbe stato un po' complicato, nel senso che pensiamo a tutti quanti quei qualsiasi situazione nella quale c'è più di un personaggio, quindi gruppi di personaggi in cui che hanno più di un genere, quindi molto praticamente ogni riga. Sarebbe un po' complicato, quindi un po' forse appesantirebbe un po' la narrazione, e comunque si tratta sempre di narrativa di intrattenimento. Quindi la soluzione che abbiamo trovato in qualche modo ve la faccio vedere direttamente. Abbiamo deciso di utilizzare la shva e sostantivi collettivi per tutte le parole che si collegavano alla parola brujex. Quindi abbiamo cercato di mantenere intatto in qualche modo questa neutralità e di non imporre il maschile sovraesteso alla comunità brujex, quindi diventa comunità brujex, pratiche brujex, leggende brujex, eccetera, eccetera. E poi in altri punti invece semplicemente usare lo schwa per gli articoli, le preposizioni, aggettivi, eccetera, eccetera. Non potete vederlo qui. Sicuramente non è una soluzione perfetta, potrebbe essere una soluzione incongruente, potrebbe essere è stata una scelta e io credo che in questo modo abbiamo cercato in parte di mantenere un'intenzionalità dell'autore che magari altrimenti avremmo dovuto cancellare in qualche modo. Di nuovo, non è una soluzione perfetta, però io credo che sia un principio. Devo dire che le persone che hanno letto il libro non si sono lamentate in nessun modo da questo punto di vista, ma anzi hanno apprezzato la scelta perché ne hanno capito, insomma, la motivazione. E comunque vale sempre il discorso che facevo prima sull'uso della shva, cioè cercare il più possibile di utilizzare gli altri strumenti che l'italiano già ci fornisce a disposizione. E qui, vabbè, è un po' parlando di maschile generico, non tutti i maschili generici sono gli stessi, 50 sfumature di maschile generico, in qualche modo. Quindi potremmo dire che anche lì c'è un po' una gerarchia, nel senso che almeno questa è quella la mia percezione nel testo, che per esempio tutti i maschili che cambia solamente la desinenza finale, plurali, quindi per esempio tutte, no? Sono meno forti, tra virgolette, creano uno scenario meno mascolinizzante rispetto a invece i maschili irregolari, quindi le cui parole quindi cambiano più significativamente a seconda del genere. Lettori, scrittori, autori, diciamo che fa un'immagine un po' diversa rispetto a... E al tempo stesso, il peggio del peggio, però vabbè, si parla sempre di negoziazione, e sono i sostantivi maschili singolari, perché mentre il plurale un po' di spazio magari, no, lo potrebbe suggerire, invece il singolare no. Quindi dicevamo prima di Alien, di appunto robot alien. Stessa cosa riguarda parole come child, baby, roommate, friend, no? Parole base proprio. Che proprio perché sono parole base è difficile girarci intorno in qualche modo. E quindi molto spesso si è costretti, diciamo che siamo obbligati in qualche modo a fare una scelta arbitraria di genere. Il problema è che è quando questa scelta è fatta completamente acriticamente. Quindi per principio, senza neanche pensarci, automatismo, no? Si traduce bambino, amico, eccetera, eccetera. Perché tutto questo potrebbe portare a dei problemi di soluzione di continuità della trama, nel senso che magari quell'amico in realtà poi è un'amica più avanti, quindi non si capisce bene cosa è successo, e poi perché dà per scontato che il maschile sia lo standard, sia la norma e tutto il resto deviante. Quindi molte volte è vero, purtroppo bisogna fare una scelta perché appunto le condizioni editoriali oppure il testo non ce lo permette, eccetera, eccetera. In questi casi a me piace scegliere la soluzione meno probabile, diciamo, no? non meno probabile, ma meno magari scontata, ok? Quindi per esempio se c'è un roommate e si parla di questo roommate che ha un ragazzo, io tradurrò, non lo so, coinquilino, perché no? No? Magari è una soluzione meno scontata, potrebbe essere, chiaramente contesto permettendo, no? Perché se questa cosa viene contraddetta nel testo non mi metto a cambiare niente. Invece però ci sono dei casi in cui è possibile girarci attorno, è possibile evitare quindi di scegliere un genere arbitrario. Mi è capitato in uno dei racconti sempre nel mio genere Top Secret, che si chiama Dissociazioni nucleari di Akhtar Shaftab. In questo racconto la voce narrante è un rifugiato che si... che è nascosto perché il mondo è diventato una landa desolata, un posto nucleare, quindi lui insieme alla sua comunità si nasconde sottoterra e è sottoposto a delle mutazioni per via delle radiazioni. Queste mutazioni vanno e vengono in qualche modo, e quindi per esempio, non lo so, gli spuntano le branchie oppure le ali, cose così. E insieme a queste mutazioni vengono in seguito a collegamenti telepatici con altre persone rifugiate nel mondo. Non si sa dove, non si sa come, non si sa perché. Vabbè, è un racconto che dovete un po' starci, diciamo. Quindi il nostro protagonista a un certo punto inizia a sentire questa voce che descrive come quella di Child, una voce infantile, quindi. Ora questa voce compare solo per una paginetta, non viene specificato mai il genere di questa voce, non si capisce da nessuna cosa delle cose che dice, anche perché le conversazioni che hanno sono abbastanza brevi. Quindi per esempio la mia revisora in quel caso mi aveva semplicemente detto traducilo con bambino, tanto non è particolarmente influente, non importa, quindi no. Però proprio perché non era influente io sono un po' testarda e quindi ho cercato in qualche modo di evitare, no? Di questa scelta arbitraria di sovradeterminazione in qualche modo. E quindi è uscito questa cosa qua, cioè It Sounds Like a Child sembra avere 6 o 7 anni, che è una roba chiaramente lontana, tra virgolette, dal testo fonte. Ho aggiunto un'età che però non viene contraddetta in nessun momento, quindi vabbè. Ho pensato a un'età adatta rispetto alle conversazioni che vengono fatte nel testo, che comunque sono veramente poche frasi, e in questo modo ho aggiunto un po' di colloquialità al testo anche. E secondo me, cioè, è abbastanza naturale in questo modo, è abbastanza fluido, fluisce, senza quindi aggiungere un genere a prescindere a priori. Più in basso sempre c'è diventa persona così giovane, quindi, no? Che magari in quel caso di prima poteva sembrare un po' straniante, ma in questo caso persona giovane può essere un po' straniante, non si capisce bene che cosa sia. Invece più avanti già abbiamo stabilito che si tratta di avere 6-7 anni, quindi si potrebbe capire più o meno più chiaro. Tocco brevemente, sempre riguardo al maschile generico, il caso di Ancillary Justice. Non si tratta qui di linguaggio non binario, ma di una patente mancanza di fiducia nel pubblico, ma anche proprio di immaginazione. Perché cosa è successo? Che Anne Leakey scrive questa trilogia, Ancillary, Justice, Sword and Mercy, in cui parla di un'intelligenza artificiale in un mondo in cui la lingua ha solo il genere grammaticale femminile. E quindi anche alle persone di genere non femminile, comunque la lingua utilizza il femminile universale. Questo chiaramente ha un effetto straniante, apposta, fatto apposta ovviamente, in italiano, sia in inglese che in italiano. In italiano ovviamente è ancora più straniante perché è una lingua molto più genderizzata, come abbiamo già detto. Quindi che cosa è successo? Nella prima traduzione, quella di Fanucci, il traduttore, tale Matteo Diari, che non conosco, ha fatto una scelta, ovvero ha riscritto tutto al maschile universale, proprio letteralmente con un bulldozer e ha cancellato tutto, che ovviamente oltre che a fare non ha senso, cioè perché fa un disservizio al testo, perché poi ci sono alcune parti in cui non si capisce esattamente di cosa stiamo parlando, perché, o di chi stiamo parlando, perché anche lui poi è un po' confuso, no? Perché se vai a tracciare tutti quanti i generi delle persone nel testo diventa complicato. Ovviamente, meno male, questa cosa è stata poi corretta nella traduzione più avanti nel 2019 della Mondadori di Francesca, non ce l'avevo qui, ora non ce l'ho più, vabbè. Francesca Mastruzzo, che ha rimesso a posto la situazione. Tra l'altro, in questo caso non serviva neanche particolare creatività, bastava seguire un po' la linea, no? Data dall'autrice nel testo stesso. Proprio come dicevo, è una chiara mancanza di immaginazione più totale, ed è a questo cui si arriva quando si dà per scontato, secondo me, no? il maschile universale, il maschile generico, che non è cattivo di per sé, insomma. Infine, arrivo alla chiusura, questo è un estratto di una graphic novel che si chiama Su un raggio di sole di Tilly Walden, e c'è un personaggio non binario che si chiama Elliot, e in questa tavola la supervisora di lavoro di Elliot e Jules, che è una sua amica, misgendera Elliot, quindi chiama Elliot al femminile, nonostante usi pronomi neutri, in questo caso they, e Jules, la sua amica, la riprende e dice they, not she, spero che si legga. E però più avanti fa anche una battuta dicendo but I'm sure you can get that you can't remember people's pronouns, quindi non ti ricordi neanche i pronomi della gente, cioè cosa vuoi. E questo viene tradotto in italiano così, che è loro, che a livello proprio linguistico non ha senso, perché cioè, nel senso, cosa significa? Non significa niente. Quindi di nuovo confusione nel testo. Ora, questo io non so se è stato fatto per ignoranza, se è stato fatto per pigrizia, se è stato fatto per però non ce l'abbiamo il neutro in italiano. Sì, ok, va bene, però io credo che cioè, ma basta usare un po' la propria testa in qualche modo, no? Perché secondo me, se andiamo a vedere su internet, per esempio, ci sono tante possibilità, appunto, come un po' quello che dicevo fino ad ora. E quindi finora io ho detto non ci sono risposte giuste e sbagliate, sì, ok, però vi prego in ginocchio di non tradurre loro, perché veramente non si capisce. E quindi quando parliamo di pronomi spesso c'è questa domanda, no? Quali sono i tuoi pronomi, che in italiano è diventata fraseologia, perché letteralmente c'è, cioè, in italiano più che i pronomi utilizziamo gli aggettivi e tutto il resto, no? E va bene, ci sta, perché altrimenti poi diventa complicato chiedere a quale genere vuoi che mi riferisca a te, no, con quale genere vuoi che mi riferisca a te, appunto, non riesco manco a dirlo, quindi va benissimo. Il problema è nelle risposte a volte, no? E in questo caso è proprio, lo rende molto esplicito. Io nella traduzione, quando capitano domande e casi del genere, cerco sempre di evitare di parlare di pronomi, proprio perché nello scritto ci posso un po' girare intorno in qualche modo. E quindi questo si poteva tradurre così, come per esempio, non lo so, El usa il neutro, ad esempio, poi più avanti, sempre nella seconda tavola, non ricorda neanche il genere da usare, ma ci sono sicura che ci sono altre traduzioni possibili, perché chiaramente che non siano loro, ok? Quindi, in sostanza, vorrei chiudere dicendo che la traduzione, come abbiamo detto finora, non ha delle risposte, delle soluzioni univoche e assolute. E il contesto è importante, ma bisogna fare delle scelte di volta in volta. Però io credo che la schwa, lo schwa, l'asterisco, la U, tutti questi strumenti di espressione del neutro, più che essere delle soluzioni, lo diceva anche Vera prima, sono delle spie nel testo, sono delle spie che illuminano dei vuoti, e questi vuoti quindi vengono alla luce in questo caso, e non solo, ma sono anche delle spie che indicano la disponibilità della persona che traduce, e comunque delle persone che in qualche modo traducono, portano il libro in Italia, di dire, di fare spazio, di allargare, di rispettare le scelte di autodeterminazione delle persone, di allargare le maglie di quella che è la nostra lingua e di quello che può essere detto nella nostra lingua e di quello che può essere nominato nella nostra lingua, perché poi è quello a cui si fa il nome, sempre. E quindi, insomma, ci dobbiamo far guidare da Anne Haraway, che dice di stare con il problema, bisogna starci, ok? E di volta in volta trovare un equilibrio. Grazie mille e...